and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ecco, siamo qui, come sapete tutti, in un asilo pieno di bambini dai 3 ai 5 anni. Vabbè, è chiaro, scusa. No, beh, però pensa che tra qualche anno al posto dei bambini ci potrebbero essere dei robot. Ma cos'è il robot? Robot, scusami. Dei cosa robot. Fantascienza del 1960. I robot, no? Io robot, le tre leggi della robotica. Isaac Asimov, quelle robe lì, no? Vabbè, hai detto bene, però fantascienza del 1960, perché sai, la fantascienza di ieri è la realtà di oggi o di domani. Ma non è vero, scusa, nessuno scrittore di fantascienza aveva mai immaginato internet, quindi la più grande previsione del futuro l'hanno cannata tutti. Vabbè, questo lo dici tu. No, è così, l'hanno cannata in pieno, vabbè, Drago. Te la vedi poi tu da solo con i nerd che inonderanno la casella mail chiedoasilo@radio24.it puntualizzando che Philip Dick o Gibson, uno di quelli lì, aveva già prefigurato la rete, il web. Dai, Tito, dai, su. Mamma mia, com'è oggi, dai. Cambi discorso, dai, stavi parlando di robot. Ah sì, dai, i robot ormai sono tra noi alla grande, esplorano i fondali dell'oceano, disinnescano le bombe, fanno degli interventi chirurgici, pochi lo sanno, ma succede continuamente. La novità è che il prossimo step è un robot intelligente quanto un bambino. Cioè? Cioè una persona artificiale col fisico di un bambino di 3 anni e il cervello di un bambino di 1 anno. Che non è male se pensi che è una roba di latta e metallo, alta 1,14 m, pesa 20 kg. Si chiama iCub, cub come cucciolo. E cosa serve? Non so, a fare lavori di fatica, lo puoi usare come... Come? Ma se ha il fisico di un bambino di 3 anni, cosa vuoi che faccia? Beh, sfruttare sulle pietre. Pietre. Sì. Ma dai, poi col cervello di un bambino di 1 anno... Cosa serve? Beh, in effetti non lo so. Può solo mettersi nei guai, cioè, cade dalle scale, va sotto una macchina. No, però impara dall'esperienza. È come un bambino, no? Quindi sì, impara. Ma non cresce, cioè resta un bambino di 1 anno. Impara, ma come un bambino di 1 anno. Guarda, allora proprio non lo so. Cioè, so che ci stanno lavorando in 350. Vedi. Sono lì, sapranno quello che fanno, mi auguro. Ogni esemplare costa 250.000 euro se uno vuole comprarselo. E poi va sotto una macchina. Esatto. Cioè. No, ma perché iCub esiste già in una dozzina di esemplari, solo che essendo una ricerca open source e in continua fase di sperimentazione, chi vuole aggiunge un pezzo. Insomma, se va male, poi le coppie che non possono avere figli adottano un iCub. Sì, un robottino. Ma cioè, tu lo adotteresti un robottino, ma che poi no, cade dalle scale, vabbè. Va sotto la macchina. Vabbè, poi se non ti piace più lo spegni e lo metti via, no? Vabbè, dai, queste cose se ti risponde male, ma no, dai. Ci sarà poi anche una legge che ti obbliga a tenerlo così. Però dai, c'è già un robottone che gira, si aggira tranquillamente nella politica italiana. Non un robottino, un robottone che fa il ministro e che ha l'intelligenza quindi di un ministro di 50 anni e che è di poco superiore a quella di un iCub. Ma sei pazzo? No, perché? Ma c'è il segreto di Stato su quella roba lì. Vabbè, allora niente nomi. Franco Frattini. Ecco, ma solo musica e anzi ritmo. E chi vuole capire, capisce. Franco Frattini. L'augurio e l'impegno dell'Italia è, onorevoli colleghi, una vera e propria corsa contro il tempo. Contro il tempo. Contro il tempo. Contro il tempo. Contro il tempo. Contro il tempo. Contro il tempo. Martedì è giorno di Talent Show. Talent Show, quindi Kid Factor. Sì, però fallo più... Però fallo più talent. Allora, martedì è il giorno dei talent show. E quindi il giorno del talent show più amato della radio. Guarda che se continui così poi arrivano delle mail che... lascia stare. La settimana scorsa vi abbiamo lasciato col fiato sospeso perché abbiamo annunciato con enfasi che si trattava dell'ultima, ahimè, puntata di Kid Factor. Ultima. E poi però non vi abbiamo detto chi ha vinto tra Sevedini. Ma infatti non era l'ultima puntata di Kid Factor, ma l'ultima coppia di canzoni da votare. Bene, ora che i voti sono arrivati possiamo anche procedere alla conta e proclamare il vincitore. Ma prima facciamo una bella carrellata di quello che vi hanno offerto per 2 mesi i nostri purissimi talenti Dini e Seba. Seba ha sorpreso tutti fin dalla sua prima apparizione, la sua gofame ha ormai lo status di un classico. Riascoltiamola insieme per ricordarla e cantarla tutti in coro. E piace le polpette, casime cotolette, e sacco le spaghetti. Niente scatolette, sono la babona, anche la salata è vacante scatolonia. Che fame, che fame, così me la mangia. Che fame, così me la mangia. Fame! Fame! Dasime da mangiare! Che poi dasime vuol dire datemi da mangiare. Perché molti non lo capivano. Bravo, datemi bravo, da mangiare. Bravo, ma anche bravo il mio Dini con la sua raccolta raffinatissima di cover d'autore. È vero, è passato dagli U2 agli Aerosmith, da Bob Marley ai Queen. Insomma, ha scelto delle cose impegnative. Giusto. Comunque, la canzone che però ha colpito di più il pubblico è stata forse Paradise City dei Guns N' Roses. Te la ricordi? Eh beh, certo. Come fai a dimenticartela? Take me down to Paradise City. Grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Take me down to the Paradise City. Grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Take me down to the Paradise City. Grass is green and the girls are pretty. Dini, scimmiotti. Ma Dini, no, ma più che altro diciamo che sono rimasto colpito. Dini alla fine piace anche a me. E devo dire, a onor del vero, che il nostro giudice supremo Morgan ha sempre parlato bene di tutti e due, però in particolare di Dini. Vogliamo riascoltarlo? Allora, l'arrangiamento di Dini direi che è totalmente superiore. Io ho prima evidenziato la differenza che c'è di base, diciamo, tra i due. Le due impostazioni. L'una, quella del cantante Dini, è fatta di morbide scelte sonore di grande competenza armonica e soprattutto di scelte timbriche, appunto, molto, molto serie, ecco. Quindi c'è anche una maturità superiore, no, in questo, nella scelta dei timbri, nell'organizzazione dell'arrangiamento. Infatti è stato definito più arrangiatore che altro. L'altro è un, se vogliamo, un situazionista, diremmo. Sì, Seba è situazionista, cioè fa delle provocazioni con le sue canzoni, provoca e cerca di scardinare quelli che sono proprio le piccole certezze della società e anche del nostro mondo musicale, buttandoci così la realtà cruda in faccia. Senza un linguaggio retorico, bensì utilizzando direttamente il linguaggio che non ha mediazioni, quindi il linguaggio della verità. E infatti l'abbiamo definito espressionista. Ecco, io non vorrei che questo però andasse a influenzare il voto dei nostri ascoltatori, però è il momento di passare appunto alla conta dei voti, alla proclamazione di questa prima edizione di... Dopo 7 esibizioni a testa, Seba e Dini si fanno da parte e la parola tocca a voi, pubblico votante. Avete ancora pochi secondi per decidere. Meno 3, meno 2, meno 1. Stop al mail voto! Stop al mail voto, quel che è fatto, ecco. Adesso. Allora, adesso scarichiamo l'elenco delle mail arrivate. Ecco, però guarda che sono tante, anzi tantissime. Cosa facciamo, scusa? Le contiamo una per una? Facciamo come l'elezione del Presidente della Repubblica. Non lo so. Diventa lunga, ma tanto ha vinto Seba. Io farei a occhio, guarda. No, ma come a occhio? No, io pretendo il conteggio, dai, come in Piemonte, Drago. Ma che in Piemonte? Lì era il riconteggio. Vabbè, uguale, conteggio. Dai, non si è mai visto assegnare una vittoria così a occhio. Però guarda, il confronto è impietoso. Nell'oggetto delle mail c'è già il voto. Guarda, Seba, Seba, Seba, Dini, Seba, Seba, Dini, Seba, Dini, Dini, Seba, Seba, Seba, Coglioni, Seba. No, cosa, Coglioni? Cos'è Coglioni? È un fan che ci scrive. Ma come fan? Sì, beh, un fan al contrario, è anche maleducato. Poi sì. Allora Seba, Seba, Dini, Seba, Dini, Seba, Seba, Seba, Seba, Seba, Seba, Seba, Dini. Continuo? No. Però tu stai leggendo gli oggetti, Drago. Sì, l'oggetto della mail. Sì. Scusa, se uno per caso nella mail vota diversamente da quello che c'è nell'oggetto? Ma perché dovrebbe farlo? Scrive nell'oggetto, ma non è che poi perché dopo. Perché non interessa? A noi interessa controllare i messaggi, perché il regolamento dice così. Scusa, Madonna. Si vota mandando un messaggio, ma mica l'oggetto del messaggio. Quindi per assegnare la vittoria bisogna leggere i messaggi. Ma vabbè, ma era per far prima. Ma io non sono d'accordo. Vabbè, e allora che si fa? E oggi abbiamo chiuso il mail voto e quindi il prossimo martedì eleggiamo il vincitore. Così contiamo con calma. Vabbè, ma adesso che si fa? Si conta con calma. Ma come si conta? Vabbè, allora, vabbè. Dini, Dini, Seba, Seba, Seba, Coglioni, Seba. Ma ancora Dini, Coglioni? Coglioni, Coglioni, Seba, Coglioni, Coglioni, Coglioni, Coglioni. Drago! Coglioni, ma cos'è? Coglioni, sei diventato un robot? Coglioni. Un robot. Tutti più buoni, tutti più carini. sentiamo domani. E mandateci due robot a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.